you. That's all right, mama, just any way you do. That's all right, that's all right, that's all right, mama. Non pensate che questo sia uno scherzo per i creazionisti. Non siamo ancora arrivati al luglio del 54. Il primo singolo di Elvis è in realtà un brano registrato 8 anni prima. Il pezzo è di Arthur Big Boy Crudup, un bluesman scoperto a Chicago dal produttore Lestel Merrows, uno degli ideatori del suono della città, colui che ha la felice intuizione di accompagnare i bluesmen con vere e proprie band. Big Boy, come si era autosoprannominato, registra questa That's Alright nel 1946 e non riceverà mai un penny dal messia di Tupelo. Well now that's all right now mama, that's all right for you. That's all right now mama, any way you do. But that's all right, that's all right. That's all right now mama, any way you do. Well my mama she done told me, papa told me too. The life you living, son, now women be the death for you. But that's all right, that's all right. That's all right now, mama, any way you do. Yeah, man. I love that woman, but I got to let her go. But that's all right, that's all right. That's all right now, mama, any way you do. Babe, now if you don't want me, why not tell me so? You won't be bothered with me around your house no more. But that's all right, that's all right. That's all right now, mama, any way you do. Stava evoluzionando. Ne è testimonianza questo Guitar Boogie del chitarrista Arthur Smith del 1945, che è la prima registrazione di un boogie per chitarra. Nella prima metà degli anni 40 prende forma quello che verrà chiamato il country moderno, grazie alla spinta decisiva del boogie. Verrà chiamato Honky Tonk, dal nome di quei locali del profondo sud degli Stati Uniti, spesso bettole, che durante il proibizionismo servivano alcol al ritmo di musica locale. Non aveva un vero e proprio sound, inglobava i generi più diversi, ma aveva come denominatore comune uno stile più duro e ruvido del country tradizionale, con la presenza della chitarra elettrica. La voce non è più così fastidiosamente acuta e canta tematiche sulla vita di strada, amori perduti e altri lati duri della vita, tanto da meritarsi il soprannome di Cry in Your Beer, piangi nella tua birra. Il termine honky tonk diventerà famoso grazie al singolo Honky Tonk Blues di Al Dexter, che vendette milioni di copie. Fra le tante star del genere, la più interessante è senza dubbio Hank Williams, il fondatore del country moderno e uno dei padri del rock and roll, morto prematuramente a causa degli stravizi con la bottiglia a soli 29 anni. Questa Movie Turnover del giugno del 47 è il primo candidato con un certo peso alla palma di primo rock and roll della storia. Billy Ellen la terrà ben presente nel momento della registrazione di Rock Around the Clock. Hank Williams e il temazzo Movie Turnover. Came in last night at 10:30. That baby of mine wouldn't let me in, so move it on over. Move it on over. Move it on over. Move it on over. Cause the big dog's moving in. She's changed the lock on our front door, and my door key don't fit no more. So get it on over. Move it on over. Scoot it on over. Move it on over. Move over, skinny dog, cause the fat dog's moving in. This dog house here is mighty small, but it's better than no house at all. So ease it on over. Drag it on over. Move it on over. Move over, old dog, cause a new dog's moving in. Around, but I done let the deal go down, so pack it on over. Move it on over. Tote it on over. Move it on over. Move over, nice dog, cause a mad dog's moving in. She warned me once, she warned me twice, but I don't take no one's advice, so scratch it on over. Move it on over. Shake it on over. Move it on over. Move over, short dog, cause a tall dog's moving in. Slide it on over. Move it on over. Sneak it on over. Move it on over. Move over, good dog, cause a mad dog's moving in. Remember, pup, before you whine, that side yours and this side mine, so shove it on over. Move it on over. Sweep it on over. Move it on over. Move over, cold dog, cause a hot dog's moving in. Qualche mese dopo entra in scena il secondo candidato come primo rock and roll, grazie a un altro gigante del jam blues. Si era guadagnato il titolo di Mr. Blues a Los Angeles con l'orchestra di Baron Moorhead. Poi era passato da Kansas City a sentire Jimmy Rushing e Big Joe Turner per rimanerne folgorato. A metà degli anni 40, Wynonie Harris era un artista molto popolare, soprattutto per gli afroamericani. Un altro shouter, Roy Brown, aveva scritto questo pezzo appositamente perché lo cantasse il suo idolo Harris. Gli inviò la canzone, ma Harris nemmeno l'ascoltò. Brown, convinto della forza del brano, chiamò il direttore della Deluxe Records e gliela cantò per telefono. Così, nel giugno del 47, Roy Brown registra il brano. Wynonie Harry sente il pezzo alla radio e nel dicembre dello stesso anno decide di trasformarlo in un chiaro antenato del rock and roll. Hold my baby tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty, mighty man. I heard the news. Bells will rock tonight. Harris accelera il ritmo della canzone e inserisce il battito delle mani tipico del gospel nel secondo e quarto tempo. Questa è la strepitosa Good Rocking Tonight. Wynonie Harris. Away all my blues. Have you heard the news? There's good rockin' tonight. Rock, rock, rock. Everybody's gonna rock tonight. I'm gonna hold my baby tight as I can. Tonight she'll know I'm a mighty man. I got the news. Everybody's rocking tonight. Well, Elder Brown, Deacon Jones, they've even left the happy home. They'll be there just you wait and see. A jumping and a stomping at the Jubilee. Hey man, there's good rocking tonight. Sweet Lorraine, Sioux City Sioux, sweet Georgia Brown, Caledonia too. They'll be there jumping like mad. Hey sister, ain't you glad? We got the news, there's good rocking tonight. Hoy, hoy, hoy, hoy, there's good rockin' tonight. Hey, hey, hey, hey, everybody's rockin' tonight. Hoy, hoy. Fin da piccolo, Aaron Thibault Walker mette le mani su ogni strumento a corda che trova in casa. A insegnargli i primi rudimenti di chitarra, ukulele, mandolino, banjo e violino è il patrigno Marco Washington, violinista nella Dallas String Band. Quando è solo un ragazzino, diventa discepolo e guida di un amico di famiglia, il leggendario bluesman non vedente Blind Lemon Jefferson, che accompagna a suonare agli angoli delle strade o nei bar, imparando i segreti dello strumento da un maestro d'eccezione. A metà degli anni 20 si trasferisce a Los Angeles, dove fa la gavetta nei jazz club di South Central. Acquista una certa notorietà nell'ambiente, poi il colpo di fulmine, la chitarra elettrica di Charlie Christian, che gli cambierà la vita. Inizia a sviluppare un personalissimo stile di assolo basato sulle linee jazz dei fiati, che sarà un'influenza fondamentale per tante generazioni di chitarristi. Sarà pioniere nell'uso della chitarra elettrica nel blues e resterà immortale con il nome di T-Bone Walker. Nel 1947 registra Call It Stormy Monday, but Tuesday Just as Bad, conosciuta semplicemente come Stormy Monday. riproposta in modo magistrale dagli Allman Brothers e che servì come ispirazione per dedicarsi allo strumento a B.B. King. Questa è Stormy Monday, T-Bone Walker. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. They call it Stormy Monday, but Tuesday's just as bad. Wednesday's worse, and Thursday's also sad. Yes, the eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Eagle flies on Friday, and Saturday I go out to play. Sunday I go to church, then I kneel down and pray. Aveva iniziato a suonare la chitarra a soli 8 anni con un maestro d'eccezione, Blind Lemon Jefferson, conosciuto a un picnic della chiesa di Buffalo in Texas dove cantava. Da quel giorno il blues si era impossessato di lui. Dopo un periodo di reclusione, Sam Hopkins provò fortuna a Houston come musicista, ma non andò come doveva, così si mise a fare il contadino. Ci riprovò nel 1946, quando venne scoperto da un tale scout della Aladdin Records che lo convinse a viaggiare a Los Angeles per registrare dei pezzi assieme al pianista Wilson Smith. Il produttore, per dare un po' di dinamismo al nome del duo, battezzò il pianista Thunder Smith e Sam sarà per sempre Lightnin' Hopkins, che nel 1948 registra roba del genere, questa Lightnin' Boogie. Well, my way, look at this. She's standing in the corner trying to do the twist. She wants a boogie woogie. Wants a boogie woogie. She wants a boogie woogie, cause it's good to her all the time. Get the little red rooster, he told the bad hen I ever catch squatting round my nest to give. Just got the boogie woogie. Just got the boogie woogie. Just got the boogie woogie, cause it's good to me all the time. Yeah. ¶¶ tell me, baby, what you want me to do. Go over across town and find me. I want a boogie woogie. I want a boogie woogie. I want a boogie woogie because it's good to me all the time. Break a day of turning on a killing. This is what she said. Don't you want a boogie woogie? Don't you want a boogie woogie? Don't you want a boogie woogie? Got good to me all the time. Il texano Wild Bill Moore è un saxofonista fortemente influenzato da honkers come Chuck Berry e Illinois Jacket. Nel luglio del 48 arriva al numero uno delle liste Rhythm and Blues di Billboard con questa We're Gonna Rock, We're Gonna Roll, che inaugura ufficialmente la stagione dei pezzi con le parole rock and roll, inteso come ballo, divertimento sfrenato. We're Gonna Rock, We're Gonna Roll, Wild Bill Moore. Dello stesso anno, una delle figure centrali della storia del rock fa il suo debutto. Era arrivato nel 1943, come tanti dal sud in cerca di fortuna. Si era stabilito nella zona sud-ovest della città, dove vivevano tanti altri afroamericani come lui. Si chiamava McKinley Morganfield, ma la nonna lo chiamava Muddy Waters, acque fangose, per la sua abitudine a sguazzare nel fango delle acque del Mississippi. Muddy Waters fu registrato per la prima volta da Alan Lomax nel 1941. Fu lo stesso Lomax a invogliarlo a provare a fortuna a Chicago, la città che presto diventerà la capitale mondiale del blues. La necessità di maggior volume per farci sentire nei locali affollati e rumorosi della città spinge Muddy Waters a imbracciare la chitarra elettrica. Anche il sound cambia. I vecchi e lagnosi blues che si facevano nelle campagne del sud vengono velocizzati con un ritmo più frenetico. Senza saperlo, aveva inventato il blues urbano. Nel 1948 incide per la casa Aristocrats, che da lì a poco passerà a chiamarsi Chess, questa I Can Be Satisfied, Muddy Waters. Child, don't you wanna go, woman, I'm trouble, I be all good mine. Well, babe, I just can't be satisfied, and I just can't keep on. Well, I feel like snapping, pistol in your face. I'm gonna let some graveyard lord be her resting place. Woman, I'm trouble, I be all wood mine. Well, baby, I can't never be satisfied, and I just can't keep on. Baby. Bell ring, looking for my baby. I didn't see not a doggone thing. Woman, I was trouble, I was all wood mine. Well, honey, I could never be satisfied, and I just couldn't keep on. Well, I know my little baby, she gonna jump and shout. That old train be late, man, Lord, and I come walking out. I be trouble, I be all wood mine. Well, honey, ain't no way to work for me to be satisfied, and I just can't keep from dying. Da un maestro a un altro personaggio che ha creato uno stile personalissimo, copiato in lungo e largo nel corso del tempo. Il suo soprannome, The Endless Boogie, il boogie infinito, fa fede alla sua musica. A suonare la chitarra gli aveva insegnato il suo patrigno, Will Moore, un bluesman con un certo successo durante la fine degli anni venti. Per casa passarono eroi del blues come Charlie Patton o Blind Lemon Jefferson. Il suo stile deriva dal blues primitivo di questi maestri, ma grazie all'elettrificazione della chitarra era riuscito ad ottenere un sound inconfondibile, ripetitivo e ipnotico. Lui, ovviamente, è John Lee Hooker, che debutta nel settembre del 1948 con questa Boogie Chillin'. She didn't love me. She had to stay out all night long. Oh Lord. Well, my mama didn't love me. She had to stay out all night long. I didn't care if she didn't love. I was boogie-woogie in her house. when you come to town, people. I was walking down Hastings Street. I heard everybody talking about the Henry Swain Club. I said I'd drop in there that night. And when I got there, I said, yes, people. Yes, they were really having a ball. Yes, I know. Boogie, children. I heard Mom and Papa talking. I heard Papa tell Mama to let that boy boogie woogie, 'cause it's in him and it got to come out. Well, I felt so good, and I went on boogie woogie just the same. Yeah. Altro rock and roll ante litteram, nonché primo riff di chitarra elettrica che potrebbe benissimo essere attribuito a Chuck Berry, è questa meraviglia di Gorry Carter, chitarrista autodidatta, influenzato da T-Bone Walker, ma con uno stile più spinto e ruvido. Con soli 18 anni è il frontman degli Epcats, con i quali registra nell'aprile del 49 la futuristica Rock a While. My sweet loving baby's coming home today. neanche un caso, ma dopo che ascolto Cioccolato Bianco non prendo più il Viagra. Harry Roland, detto Roy Bird, è un pianista della Louisiana che esegue un blues con stile New Orleans e influenze caraibiche come rumba, mambo e calypso. Non venderà mai tantissimo, ma sarà influenza basilare per Fats Domino e Way Piano Smith. È Mike Tessitore, proprietario del Caldonia Club nella Big Easy, a dargli il soprannome Long Hair per la sua capigliatura ispida. Questa Mardi Gras in New Orleans è una rumba boogie che contagia carnevale. Lui è Professor Long Hair e questa è Mardi Gras in New Orleans. Well, I'm gonna draw it. I wanna see the money draw. Yes, I'm gonna draw it. I wanna see the money draw. When I see the money draw, I wanna know what's carnival for. Going down in your lane, I've got my ticket in my hand. Going down in your lane, I've got my ticket in my hand. When I get in your lane, I wanna see the Zulu King. Down in Raleigh, down on Rampart and Dumaine. Yes, down in Raleigh, on Rampart and Dumaine. Gonna make it my standing place until I see the Zulu Queen. Gennaio del 49, Jimmy Preston, un band leader, cantante e sassofonista, con i suoi Prestonian, dà il suo contributo al rock registrando la versione originale del classico di Billy Haley di qualche anno più tardi. Haley sostiene che l'ascolto di questa canzone gli fece lasciare il western swing per immergersi nel nuovo sound che si chiamerà rock and roll. Questa è la scatenata Rock the Joint. Jimmy Preston and the Prestonian. Yeah.

mission. They put each one of us on suspicion. Now my chick came down and went my bail and finally got me out of that rotten jail. Now, if you ever want to get a fist in your eye, just mention a Saturday night fish fry. I don't care how many fish in the sea, but don't ever mention a fish to me. It was rocking. It was rocking. You never cease that scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking. It was rocking. You never cease that scuffling and shuffling till the break of dawn. I Maddox Brothers sono un gruppo hillbilly dell'Alabama, formato da cinque fratelli e la sorella Rose. La loro era musica tradizionale rafforzata con tanto, tanto boogie. Il contrabbassista Fred Maddox fu il primo a utilizzare la tecnica slap con il contrabbasso, che consiste nel percuotere e tirare le corde per accentuare il ritmo, un modo di suonare tipico del rockabilly. Loro sono i Maddox Brothers and Rose. E questo è l'incontenibile George Plays House Boogie. Spot on the Waterloo Road, got a hillbilly band called Maddox and Rose. George's Playhouse, so the story goes, where they play a boogie boogie that'll wiggle your toes. Pull off the shoes and what a sight when they do the boogie boogie on a Friday night. Oh, let's go now. Altro contributo del jam blues al rock and roll è con questo scatenato inno al nettare d'uva. Drunk in Wine, Spodio.D è di Granville Henry McGee, un cantante e chitarrista famoso con il soprannome di Stick, bastone, un nomignolo che viene dall'infanzia, quando spingeva con un bastone il carro che trasportava suo fratello maggiore colpito dalla polio. Questo pezzo rimase al numero 2 per 4 settimane nel 1948 ed è un altro classico prototipo di puro rock and roll. Drinking Wine, Spodio.D. Lui è Stick McGee. Down in New Orleans where everything's fine, all them cats is drinking that wine, drinking that mess, they're delight. When it gets drunk, start singing all night, drinking wine, spoodie, drink wine, mop, mop, wine, spoodie, drink wine, mop, mop, wine's prettier to drink a wine. Mama, pass that bottle to me. Drinking that mess, dear delight. When you get drunk, start fighting all night. Knocking down the windows and tearing out doors. Drinking half a gallon and calling for more. Drinking wine, spurdy, to drink wine. Mama. Wine, spurdy, to drink wine. Mama. Wine, spurdy, to drink wine. Mama. Hands and ball to me. Hoy, hoy, hoy. Wine, wine, wine. Elderberry. Wine, wine, wine. Or cherry. Wine, wine, wine. Blackberry. Wine, wine, wine. Half and half. Wine, wine, wine. Oh boy, pass that bottle to me. If you wanna get along, New Orleans town, buy some wine and pass it all around. Age runs up, 49. All those cats, they love sweet wine. Drinking wine's for you to drink wine. Mama. Wine's for you to drink wine. Mama. Wine's for you to drink wine. Mama. Pass that bottle to me. Hoy, hoy. Wine, wine, wine. Elderberry. Wine, wine, wine. Port cherry. Wine, wine, wine. Blackberry. Wine, wine, wine. Heaven has. Wine, wine, wine. Oh boy, pass that bottle to me. Drink that slop. That's what I'm talking about. Ah, drink it. Sneaky Pete. Down on Rampart Street at Willie's Den. He wasn't selling but a little gin. One cat wanted a bottle of wine. If that cat for a dollar and a dime. A drinking wine's for you to drink wine. Mama. Wine's for you to drink wine. Mama. Wine's for you to drink wine. Mama. Hands and bottle to me. Hoy, hoy. Wine, wine, wine. Elderberry. Wine, wine, wine. Port cherry. Wine, wine, wine. Blackberry. Wine, wine, wine. Heaven hand. Wine, wine, wine. Oh boy, pass that bottle to me. I got a nickel, have you got a dime? Let's get together and get a little wine. Some buys a fifth, some buys a quart. But when you buy sherry, now you're doing things smart. Drinking wine's for you to drink wine. Mama. Drinking wine's for you to drink wine. Mama. Wine's for you to drink wine. Mama. Pass that bottle to me. John Veliotes, un californiano di origini greche, è uno degli artisti più poliedrici della scena musicale rhythm and blues. Batterista, cantante, produttore, vibrafonista, DJ radiofonico, presentatore televisivo, talent scout e predicatore. Inizia come batterista nella jazz band di Otis Count Matthews, che si ispirava al Conte Basie. Dopo il piccolo successo di Harlem Nocturne del 1946, investi i proventi aprendo nel ghetto nero di Watts di Los Angeles il Barrel House, il primo locale al mondo con programmazione integralmente di rhythm and blues. Si cambia il nome in Johnny Otis perché fa più nero, visto che lui è sì bianco, ma se glielo si fa notare c'è il rischio di ritrovarci con la mandibola dolorante. Nel 49 registra questo tripudio di rock and roll, Good Old Blues, Johnny Otis. Thank you. Wynonie Harris è un personaggio importantissimo nella transizione che porterà al rock and roll. Il giovane Elvis lo vide in concerto a Memphis e copierà il classico movimento di bacino di Harris, facendone un mito sexy e guadagnandosi il soprannome di The Pelvis. Si dice che questa canzone sia la risposta a tutti i suoi denigratori che lo consideravano uno che si era trovato nel posto giusto al momento giusto, e ovviamente si riferivano a quel pezzo di Roy Brown. In effetti, dopo quella bomba, aveva fatto qualche onesta cover o pezzi originali un po' scialbi. La risposta di Wynonie Harris a tutti i suoi critici fu con questa turbolenta All She Wants to Do Is Rock, dove ci assicura che la sua ragazza non vuole fare altro che rimanere in casa con lui a fare rock and roll tutta la notte. All She Wants to Do Is Rock, Wynonie Harris. Hold back the dawn. Stop all the clocks. I just got the news that my baby wants to rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. Rock and roll all night long. My baby don't go for fancy clothes, high class dinner and picture shows. All she wants to do is stay at home and huckle buck with daddy all night long. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. Rock and roll all night long. She doesn't like ride on airplanes. Never had a trip on a streamlined train. When it comes to loving, she knows what it's all about. And the way she huckle bucks knocks me out. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. Rock and roll all night long. She wants to rock with the clock, but she don't know when to stop. She gets her kicks every day. Yes, rocking her fine self away. She rocks in the basement and she rocks upstairs. I can't take it no more, I'm gonna buy a rocking chair. She wants to do is rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. Rock and roll all night long. Dicono che il suo soprannome sia per il suo idolo Fats Waller, ma sono in molti a giurare che venga dal suo appetito senza limiti. È stata la prima grande figura del rock and roll ad apparire in scena. L'artista afroamericano che più ha venduto negli anni 50 è anche il primo artista nero di successo a piacere ai bianchi. Nel dicembre del 49 il suo debutto, una velocizzazione di Junkers Blues di Champion Jack Dupree, vende oltre 1 milione di copie grazie a uno stile delicato e allegro che farà scuola. Lui, ovviamente, è Fats Domino e questa è la sua The Fat Man. Thank you.